Una bella idea. Allora facciamo così, noi mettiamo il cestino, ma l'occorrente ce lo facciamo suggerire dal dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica. Una situazione come quella del picnic da spiaggia è una di quelle più piacevoli, simpatiche, e devo dire che rovinarsi un pomeriggio di spiaggia con la pancia gonfia o con uno stato di stanchezza generale davvero è un peccato. Quindi piccole cose, piccoli trucchi, perché davvero quello che mettiamo nella nostra borsa frigo che ci accompagna nel corso della giornata è davvero fondamentale. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Direi due cose sono da tenere presenti in modo pieno, che sono la possibilità di avere a disposizione sempre dell'acqua, anche dell'acqua fresca, davvero la possibilità quando si è esposti al sole, al vento, all'acqua, di poter introdurre dell'acqua per idratarci è fondamentale. Avere a disposizione sempre della frutta fresca, perché questo in un qualsiasi momento di fame ci può venire bene. Ma qualche ricettina sfiziosa che ci possa aiutare? Intanto vediamo quali sono le caratteristiche. Eviterei assolutamente delle sostanze ad alto contenuto salino, quindi chi si porta in spiaggia la focaccia, la pizza, il classico panino, in realtà sta commettendo un danno. È un momento di calore, noi tratteniamo sale e ci troviamo con le gambe gonfie, la pancia gonfia, ma teniamo la pizza che è buonissima, che è una tradizione culturale italiana, per la sera quando fa più fresco possiamo tenere le gambe sollevate. Invece proprio alcune delle cose carucce che possono essere portate, ad esempio del cottage cheese o della ricotta fresca, quindi con dei dadini di pomodoro, con dei dadini di zucchini o con dei dadini di cetriolo, il tutto miscelato con un velo d'olio, ecco che questo, anche già preparato, ci consente di mangiare qualcosa di fresco e di sereno. Non è necessario il pane, cosa possiamo portare al posto del pane? Portiamoci dei gambi di sedano, ma se vogliamo qualcosa di farinoso, allora piuttosto una patata bollita e poi raffreddata successivamente, tagliata a dadini con un velo d'olio sopra e con un po' di prezzemolo, con qualche aroma, ecco che ci dà il senso del farinaceo, cioè qualcosa che abbiamo voglia di mangiare, ma contemporaneamente ci dà il potassio che ci tiene sulla pressione e ci aiuta a sgonfiarci dei liquidi in eccesso. Quindi frutta a disposizione, delle sostanze semplici come dei formaggi, lo stesso un dolce, al posto di mangiarci una torta, ecco che uno yogurt correttamente preparato con della frutta, dadini e un velo di miele all'interno ci tiene sicuramente più energetici, più tonici e sicuramente meno pesanti, con il piacere di uno sfizio fresco e con qualcosa che ci fa solo del bene. E adesso cambiamo argomento, parliamo di piante, le ammiriamo, le curiamo, c'è anche chi timidamente, sottovoce, magari col timore di essere ascoltato da orecchie indiscrete, le avvicina con parole affettuose mentre se ne prende cura. Un saluto, una coccolina, un apprezzamento. Bene, se sino a qualche tempo fa questo poteva essere considerato un po' bizzarro, oggi la prospettiva cambia radicalmente. Il merito è di una scienza che si chiama neurobiologia vegetale, una scienza che, come dice il nome, studia l'intelligenza delle piante, l'intelligenza verde, se così possiamo chiamarla. Ne parliamo oggi per la gioia di chi non ha mai creduto sino in fondo che le piante si limitassero a vegetare, con il professor Stefano Mancuso dell'Università di Agraria di Firenze, ideatore della LIMV, il laboratorio di neurologia vegetale, il primo, pensate, al mondo specializzato sull'intelligenza, sulle capacità comunicative e delle piante. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Professore, allora le piante ci sentono? Non è un'impressione della tribù dei pollici verdi? No, assolutamente. Le piante hanno i nostri stessi cinque sensi, potremmo dire, più un'altra serie abbastanza numerosa di sensi che mancano normalmente agli animali. E il fatto è anche facilmente intuibile. Lei pensi che le piante, a differenza degli animali, appunto, non si spostano, si muovono molto, ma non si possono spostare dal luogo in cui sono nate. Quindi sono obbligate, sì, a sentire con anticipi molto grandi ciò che sta succedendo intorno a loro, in modo da adeguare il proprio corpo a questi cambiamenti. È per questo che